Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci a voi, sono le 11.07, abbiamo Paolo Corleone in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Invidia, la verde insidia, rimedi naturali per i malanni di stagione, uva e melograno per aggiungere colore e salute alla tavola. Oh, io no, avrò tanti difetti ma non questo. Chissà perché quando si parla di invidia nessuno è disposto a confessare di provarla. Al contrario, è molto frequente pensare di esserne vittima. Molte volte usiamo proprio l'invidia per giustificare i torti nei nostri confronti. In realtà, io credo tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti perché lui e non io. E tutti, almeno una volta dopo questa domanda, abbiamo sentito dentro di noi qualcosa di strano, di negativo, di fastidioso, qualcosa che per tradizione si associa ad un colore, il verde. Verde di invidia, per l'appunto. Se volete parlarne con noi, chiamateci al nostro numero verde 824 0024. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. In linea con noi il professor Paolo De Nardis, che è ordinario di sociologia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma e autore di L'invidia, un rompicapo per le scienze sociali. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, ben ritrovata. In studio abbiamo invece il nostro, posso dire così? Certo. Il nostro Alberto Pellai, medico e ricercatore all'Università di Milano e il papà di questa casa non è un albergo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, tu ti senti, con te sono più in confidenza, ti senti più invidiato o più ti sembra di essere più invidioso? Guarda, la domanda è difficile. Io credo di avere una vita invidiabile, per cui magari qualcuno ogni tanto guardandomi mi considera molto fortunato, magari mi invidia un po'. Non credo di essere molto invidioso. L'invidia però, Alberto, è uno dei 7 vizi capitali. Fra questi, come sottolineava Galimberti in un suo articolo, è il solo a non dare piacere, perché l'invidioso rosica, non sta bene. Ma l'invidia è un vizio o un sentimento? Lo chiedo anche al professor De Nardis. Professore. Ma guardi, l'invidia dal punto di vista storico è uno dei 7 vizi capitali, sì. Quindi se noi vogliamo guardare un po' quella che è la tradizione della teologia cristiana, soprattutto di marca cattolica, l'invidia è un vizio. Di fatto può diventare una categoria sociologica idonea a spiegare molti comportamenti sociali, soprattutto molte patologie delle relazioni sociali, delle relazioni interumane. Ecco, quindi diciamo che in qualche modo è da trattare dal punto di vista della sociologia dei sentimenti, per rispondere alla sua domanda, oggi. E chiaramente un sentimento quanto mai negativo, perché tende a corrodere, a minare, come dire, a distruggere proprio il tessuto sociale, quindi quel sistema di aspettative reciproche in cui è fondamentale il ruolo non soltanto di noi stessi, ma anche degli altri, perché noi abbiamo delle aspettative nei riguardi degli altri e gli altri hanno delle aspettative nei nostri riguardi. Quindi l'invidia nasce proprio invece come tentativo, come un acido solforico che tende a rompere questo tessuto sociale. È un sentimento negativo. Un sentimento negativo, e come dicevamo, proprio di questi sentimenti tra i vizi capitali è proprio quello che non dà piacere, Alberto, perché l'invidioso, si dice rosica, soffre. E certo che sta male. Tra l'altro credo proprio che ti fa fare questa bruttissima operazione, vedere l'altro sempre come qualcuno che alla fine è contro di te, qualcuno con cui non puoi costruire un'alleanza, qualcuno che devi far fuori per stare meglio tu, meglio te, e conseguentemente è qualcuno con cui alla fine vivi in un costante stato agonistico, mentre la vera fortuna nel vedere gli altri, anche quelli migliori di te, pensare che potrebbero diventare modelli per te se sono migliori, o potrebbero diventare compagni di squadra, e quindi invece che muoverti sull'agonismo ti potrebbero muovere sulla motivazione cooperativa, sull'idea che l'unione fa la forza. Io farei un passo indietro, perché stiamo già così dando tante caratteristiche dell'invidia, ma molti spunti ce le offre anche l'etimo stesso, professor De Nardis. Sì, è vero, perché l'etimo viene proprio dal latino invidere, che significa guardare con uno sguardo obliquo, ecco, lo sguardo secco, come dire, ed è il sentimento che si prova non soltanto per l'altrui gioia, l'altrui felicità, l'altrui supposta felicità, supposta gioia, ecco, diceva giustamente il professor Pellai, l'invidiabilità dell'altro, ma soprattutto in quella sindrome dell'altro, perché molto spesso magari si ha o si è in un certo modo, ma non si vuole che gli altri possano eguagliarci. Ecco, quindi l'invidia può nascere anche dal fatto che gli altri possano arrivare a un certo livello che è supposto come il nostro. Ecco, quindi esiste questo tipo di invidia che di fatto, questo tipo di sentimento che di fatto si muove sull'azzeramento dell'altro, si muove sulla vera e propria distruzione a volte dell'altro. E questo guardare con occhio secco, con occhio di traverso, è un dato di fatto. Vede, anche io 10 anni fa avevo scritto che l'invidia è l'unico dei 7 vizi capitali che non produce piacere, e non è un caso che Dante metta gli invidiosi, non come tutti gli altri peccatori, all'inferno, ma nel purgatorio, perché suppone che abbiano già tanto sofferto in vita. Certo. E addirittura si possono riscattare. Come li mette? Li mette tutti l'uno vicino all'altro, come tanti fratellini che si vogliono bene, invece si è odiato il prossimo tutto, nella vita terrena, e con gli occhi chiusi e soprattutto legati, cuciti da fil di ferro, perché non guardino più in quel modo. Ecco, quindi è quanto mai importante questo, ovviamente rapportato ai sistemi sociali. Noi possiamo dire che ci siano delle società più invidiogene, che producono più invidia, e società meno invidiogene. Ecco, perché è chiaro che l'invidia è un sentimento, e come tale, dal punto di vista di un sociologo, è un prodotto sociale. Alberto, stiamo parlando della persona che invidia, ma anche chi si sente invidiato, direi che vive, si dibatte tra due sentimenti contrastanti. Da un lato la paura per l'occhio malevolo dell'invidioso, una sorta di superstizione, dice mi ha guardato male, mi ha guardato storto, mi porta male. Dall'altro però c'è il sottile piacere di essere oggetto di invidia, quindi di desiderio, di ammirazione. Anche quindi la persona che si sente vittima a sua volta, no, deve un po'... Ma credo che la posizione dell'invidiato è una posizione davvero difficile da gestire, perché ti viene da dire, ma io che colpa ne ho se le cose mi stanno andando così bene, oppure se la vita mi è andata bene? Direi anche un'altra cosa, che spesso l'invidiato è una persona che in realtà sa qual è il percorso che l'ha portato ad essere in quella posizione di vantaggio, sa quali sono state le sue fatiche, i suoi sacrifici, il suo darsi da fare, e quindi ha una visione complessiva che magari all'invidioso sfugge completamente. L'invidioso ti vede là in quella posizione e pensa che tu ci sei arrivato magari per caso. Io voglio leggervi il messaggio di Daniel, che ci scrive: credo che essere invidiato sia la mia forza, se mi invidiano vuol dire che ho successo, e questo mi manda in estasi, mi carico e ringrazio chi mi invidia. Certo, bisogna però anche fare molta attenzione, perché l'invidiato spesso tiene una posizione molto compiaciuta, che, come diceva proprio il professor De Nardis, poi mantiene le altre persone ad una certa distanza, come proprio far capire io sono superiore a te. A me capita, per esempio, in moltissime situazioni di sentirmi chiedere, mi puoi dare i tuoi appunti, mi puoi dare, che ne so, le tue presentazioni quando fai un corso di formazione. Per me non c'è nessun problema, quello che è mio è tuo. E molte persone rimangono colpite perché in precedenti situazioni si sono sentite dire, no, questa è cosa mia, questa l'ho fatta io, l'ho conquistata io, tu fattela tu per conto tuo. Allora, giriamo la domanda ai nostri amici da casa: voi vi sentite più invidiati o più invidiosi? Qual è la cosa o la dote che vi fa rosicare, e quale parte della vostra vita fa scattare, a vostro avviso, l'invidia altrui? 800 24 00 24, per fortuna è verde, che così attiva le vostre telefonate, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Il freddo non molla, d'altronde inverno è la sua stagione, deve fare il suo lavoro, ma a farne le spese sono spesso la gola e il naso. Questi sono i punti deboli di molti di noi e in particolare dei nostri bambini. Allora, affrontiamo questi disturbi sul nascere con l'aiuto di Rimedi Naturali. In linea con noi il dottor Marco Temporin, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Dottor Temporin, un colpo di freddo e la nostra gola va in fiamme. Purtroppo sì, questa è la stagione giusta per avere questi tipi di problemi. Però per fortuna la natura ci viene incontro, anzi in questo caso ci vengono incontro le api e la loro produzione, nel senso che in fitoterapia esiste un prodotto, la propolis, che è un prodotto eccezionale per aiutarci in tutti quei malanni che colpiscono la nostra gola. È un prodotto sicuramente utile, tra l'altro può essere utilizzato in varie forme, e mi spiego meglio, può essere in soluzione idroalcolica, quindi va molto bene per gli adulti, ma può essere anche in soluzione idrodispersibile, per cui anche per i bambini che non tollerano l'alcol può essere usato tranquillamente e di conseguenza questa propoli dona un sollievo alla gola, sfiamma, decongestiona, ma anche disinfetta. Senta, dottor Temporin, ho bisogno che lei ci dia anche una mano quando, oltre alla gola, viene messo KO, mi lasci dire così, il nostro naso, che colo o si tappa? Sì, molte volte le due cose possono essere anche simultanee o venire in sequenza. Ecco, in questi casi esistono proprio delle preparazioni fitoterapiche che ognuno di noi, ognuno di voi può preparare a casa. Bene. Per esempio io consiglio molte volte di fare i classici suffumigi, quindi si utilizzano alcune piante quali l'eucalipto oppure il timo, i quali messi in infusione, ancorché caldi, possono essere inalati e di conseguenza liberare le prime vie aeree. Ovviamente questa cosa è più utile agli adulti, mentre per i bambini possono essere utili fare dei piccoli aerosol con degli oligoelementi. Oligoelementi quali il manganese rame o il rame stesso sono delle forme di soluzione fisiologica che possono essere usate per aerosol e hanno un effetto di decongestione delle vie nasali e soprattutto danno sollievo ai bambini. Dottor Temporin, lei sicuramente il mal di gola, quando ci viene il mal di gola nessuno ci invidia, ma lei, la tiro dentro in questa nostra discussione su questa verde insidia, si sente invidiato o è più invidioso? Penso di sentirmi invidiato. Anche tu, nessuno ammette di essere invidioso. Beh, però a volte l'invidia è sana, viene naturale, no, Alberto? Ma guarda, in realtà credo... Perché nessuno dice, no, io sono tutti, siete tutti invidiati. L'invidia è veramente, credo, un sentimento che fa parte dell'insicuro. Per cui una persona che ha raggiunto una certa sicurezza nella sua vita, effettivamente ha poco da invidiare. Dottor Temporin, buona giornata, grazie e tanti auguri, ci sentiamo prestissimo. Auguri a voi tutti, arrivederci. Grazie. Pronto soccorso. Avrei dovuto dirtelo, lo so, avrei dovuto dirtelo, ma non so cosa è successo. Io mi sentivo in colpa o non so cosa, ero così preso dall'invidia per tutte le cose che tu avevi. È vero ciò che dicono, è come un piccolo, sì, un mostro verde che viene fuori e che ti avvelena la mente. E a proposito, tu non hai fatto niente di male, tu hai solo seguito il tuo sogno, hai fatto quello che volevi fare. Io continuavo a dirti non farlo, ma l'hai fatto e ha funzionato. Sì, ha funzionato, hai costruito una casa, giusto? Ecco, hai costruito una casa. Ed è molto grande, è gigantesca, Nick. Hai costruito la Casa Bianca davanti a noi e ci hai lasciato all'ombra, letteralmente. Ogni giorno noi restiamo all'ombra, però non è colpa tua. Volevi che restassimo amici e non volevi trasferirti ed è bello, è una cosa che ti è venuta dal cuore. Però vedi, cominciava a darmi fastidio perché ogni giorno dovevo vederti con tutte le cose che avevi, tutte. Anche la Lamborghini gialla che fa 800 chilometri l'ora, anche il bullying in casa, perfetto al posto tuo, l'avrei fatto anch'io. Tutti vorrebbero una giostra, certo che devi avere una giostra. Invidia tutti i giorni. E mi stava consumando. L'invidia del mio miglior amico, c'è un'invidia dell'essere e un'invidia dell'avere. Nell'estratto del film l'invidia sembra più diretta alle cose, la casa, la macchina, ma c'è un'invidia ancora più difficile da digerire, quella per le doti, il talento. Perché Alberto, volendo una macchina, metti con un colpo di fortuna, vinci, no? E arriva. Ma l'intelligenza, la simpatia, un modo di essere, di affrontare la vita, a volte o c'è o non c'è. Sì, credo che le doti dell'altro sono quelli che smascherano un po' le tue mancanze, i tuoi lati deboli. Se tu hai un buon profilo di autostima, sai accettare i tuoi punti di debolezza, così come sai riconoscere i tuoi punti di forza. Ma se tu non hai autostima, se tu appunto vivi in modo alquanto insicuro, le doti dell'altro immediatamente le vivi come mancanze e difetti tuoi. E se non riesci a emulare l'altro, a vedere nell'altro qualcosa da ammirare e da imitare il più possibile, l'altro è qualcosa che devi far fuori. Massimo ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Ci racconti anche lei l'invidia la subisce? Ma guardi, io sono un turnista dell'invidia. Cioè, ogni tanto la subisco e ogni tanto la pratico. Ecco. Quindi ho imparato un pochino a gestirla. Prima sentivo perché sono anch'io formatore, lavoro per una casa farmaceutica e mi occupo di training. Sì. E sentivo il dare una presentazione. Mm. È capitato anche a me di avere un sentimento di ritrosia nel dare una mia presentazione. Poi però ho imparato nel tempo che non è il concetto, come dicevate poc'anzi, dell'oggetto in quanto tale. Mm. È chi poi dovrà gestire questa presentazione che fa la differenza. Certo. E quindi c'è più un'invidia per il saper fare alcune cose in un certo modo e il sapersi comportare in alcune situazioni. Quella la provo, cerco di gestirla, devo dirle la verità. Come fa a gestirla, Massimo? E cerco di farmene una ragione. C'è so di non potergliela portare via e so di poter stare più male io nel volerla e non poterla raggiungere. So che questo è razionale. È così. In questo momento me la porto a casa e la impacchetto, me la tengo, mi fa soffrire e me ne faccio nel tempo una ragione. Però è l'unico modo per, tra virgolette, dominarla. Ecco. Certo. Grazie, grazie. È una cosa naturale. Grazie a Massimo e tanti auguri. Professor De Nardis, spesso l'invidia si prova proprio tra simili, tra vicini di casa, tra colleghi, in famiglia. C'è un ascoltatore che scrive: sono sempre stato invidioso dei miei colleghi, credo di lavorare meglio ma ho sempre guadagnato meno di tutti. E qui parte, cioè è un vizio, un sentimento, qualcosa che si prova proprio nei circoli piccoli. Adesso non lo so, è certo che io da donna guardo Angelina Jolie e dico ammappate, però insomma non è un'invidia quella, no? No, ecco. E invece è più facile averla per la collega, la sorella, l'amica. Che Dunque, io innanzitutto mi complimento col nostro ascoltatore Massimo da Varese, la provincia di Varese, perché ammette di essere in maniera sia pure a corrente alternata invidioso o invidiato. Ed è vero, perché in genere chi pensa di essere invidiato, vuol dire che è stato invidioso, o forse lo è e non se ne accorge. Quindi ci sono delle problematiche molto interessanti, senza essere valutativi in materia, no, proprio descrittive, che stiamo analizzando un po' il concetto, come anche l'accettazione del limite, l'insicurezza, tutte cose molto giuste. La problematica che lei poneva sul tappeto, prima quella dei verbi ausiliari, l'invidia dell'avere si trascende molto più facilmente dell'invidia dell'essere, che è quella più corrosiva. Ma soprattutto, quando è che si prova invidia? Non si prova invidia nei rapporti di lontananza. Ecco, l'invidia per il grande divo, l'invidia per il grande miliardario. Perché? Perché è emotivamente lontano da noi. Certo. L'invidia si prova proprio, invece, nei piccoli gruppi, nei contesti di vicinanza, nel gomito a gomito. E molto spesso perfino nei rapporti di carattere affettivo, familiare. Si fa un gran parlare di famiglia, ci riempiamo la bocca, eppure le peggiori invidie molto spesso nascono in famiglia. Evidentemente c'è qualcosa che non va dal punto di vista della produzione di queste invidie, dal punto di vista della produzione di questi concetti di famiglia. Ma soprattutto nei nostri contesti, in quella che per noi moderni è la modernità, l'invidia si misura proprio negli ambiti professionali, negli ambiti di lavoro. È vero che il vicinato produce invidia. L'erba del vicino. L'erba del vicino, certo. Fatto sempre più verde, a proposito del colore e della ritualità di questo colore che torna. Ma soprattutto nelle professioni. Vede, il medico invidia l'altro medico, il grande medico invidia l'altro grande medico, l'avvocato l'altro avvocato, il professore l'altro professore. Una domanda a lei, me la consente? Sì. i giornalisti sono invidiosi. Certo, certo, là. E quindi, ma tutti lo è chiaro siamo. Che nasce da contesti dove la perizia, la professionalità, in qualche modo può essere più sotto i riflettori. È chiaro che le grandi invidie nascono soprattutto là dove c'è più stress mediatico, più luci della ribalta, ma non è detto che anche nei punti più oscuri, nei punti meno visibili, non nasca invidia. E allora evidentemente questa situazione provoca anche la paranoia dell'invidiato. Io scrissi della iettatura, ecco, ovvero la paranoia dell'invidiato. In effetti, anche proprio lo posso dire anche da chi ha origini meridionali, l'invidiato si sente sostanzialmente, sente in qualche modo la mala sorte che gli può cadere addosso da un momento all'altro. Come? L'invidioso è convinto che la persona che sta invidiando è in quella situazione di primazia ai suoi occhi soltanto perché è stato più fortunato, non più bravo, e quindi se la prende con la sorte. Altro punto ancora, noi stiamo parlando di invidiosi e invidiati come se ci fossero solo due termini della questione, ma se non ci fosse l'ipotesi di un pubblico giudicante che opera ogni due secondi questa comparazione, non ci sarebbe né invidioso né invidiato. L'invidioso in genere si sente sempre sotto giudizio da parte di una comunità che magari invece non lo considera proprio, i propri problemi. Non ecco, quindi non è un ecco. rapporto a due, professor De Nardis, ma a tre. Come la gelosia. Andiamo da Laura a Milano. Mentre la gelosia si capisce che è a tre, sì, perché c'è una terza persona che tende a portare via qualcosa o qualcuno, l'invidia apparentemente, ma solo apparentemente, sembra due. In realtà c'è questa ipotesi nascosta di un pubblico giudicante che continua a fare comparazioni e misurazioni. Insomma, torna al triangolo. E Laura da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono un po' emozionata perché è la prima volta che intervengo a una radio. Bene, venga che la sostengo io. Niente, volevo dire che io sono una libera professionista, sì, e nel imitare chi era meglio di me nella professione ho cercato di dare il meglio di me, sì, ma non mai come aspetto invidioso, ma come aspetto di imitare, insomma, chi poteva insegnarmi qualcosa. Certo. Mentre nella mia vita mi rendo conto di essere molto invidiata, ma non faccio nulla, non sono bella, non cerco di fare il meglio del mio lavoro, al meglio, insomma, tutto quello che faccio cerco di farlo al meglio. Però questa invidia mi ha nociuto, l'invidia che gli altri hanno verso di me, la sento come un peso negativo, e soprattutto nell'amicizia io ho potuto constatare che chi era invidioso di me non poteva essermi amico, ad esempio. Certo, io Alberto, secondo me Laura dice qualche cosa di assolutamente vero. Quando tu scopri che un tuo amico ti invidia, in qualche modo ti senti tradito, perché l'amico dovrebbe condividere con te tutto, no? E quindi gioire delle tue gioie. Adesso la teniamo questo spunto. Io saluto Laura, che ringrazio. Grazie molte per Laura è stata bravissima, complimenti. Grazie. Auguri Laura. Noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, e torniamo insieme al professor De Nardis, Alberto Pellai, e voi continuate a chiamarci all'824 0024. Essere e benessere. L'invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto, più torna a galla. Moravia. Alberto, questo è vero, dell'invidia, nel momento in cui entri in questo circolo, no, dell'invidia. Loop, è come la gelosia, effettivamente, che poi ti... Ma poi parleremo, professor De Nardis, adesso sviluppiamo per un attimo lo spunto che ci ha dato Laura, ma molti ascoltatori ci stanno chiedendo le differenze, perché dell'invidia con la gelosia, con l'ammirazione, con la competitività, tante volte diciamo non sono invidioso, sono geloso, e così, come ci suggerisce un nostro ascoltatore, ci sentiamo forse più buoni. Ma Alberto, Laura ci diceva: mi fa male quando una persona mi invidia, perché ti senti un po' tradita, tu vuoi condividere, l'altro invece scopri che rosica. Ma credo proprio che è l'occhio dell'invidioso che si posa su di te, che è un occhio che non ti può lasciare tranquillo vicino a lui, perché l'invidia separa quando la senti proprio come una minaccia. C'è però da fare attenzione, l'hanno scritto anche molti ascoltatori nei loro sms, c'è chi si nutre dell'invidia. invidia dell'altro, cioè sì. Fondamentalmente l'invidiato spesso è una persona che ostenta cose, che vuole che gli altri guardino, ammirino, invidino, e quindi si nutre proprio di questa posizione di potere che si dà. La vera persona competente, la vera persona che viene invidiata e in qualche modo subisce questo sentimento, è una persona in realtà molto tranquilla e sicura, che sente quasi come una sofferenza l'invidia degli altri. A quel punto è una persona che spesso si mette a disposizione, si mette a servizio dell'altro. E lì lo smonti, perché effettivamente l'altro non può più invidiarti, perché sei una persona così speciale che è come se automaticamente riconosci che ti meriti quello che hai. Professor De Nardis, È vero, assolutamente, sono d'accordo. Professore, io vorrei cercare di così definire, mettere un po' dei paletti, perché tante volte chiamiamo l'invidia con altri nomi. È vero. Ecco, ad esempio invidia e gelosia sembrano avere un confine molto labile, in realtà sono due cose diverse. Assolutamente. In effetti molto spesso usiamo altri termini, perché fa paura parlare di invidia. L'invidia in effetti veramente è qualcosa di molto pernicioso, di spaventoso a volte. Addirittura in sociologia si è evitato accuratamente un termine eppure così sociologico come quello di invidia, con imitazione, emulazione, privazione relativa. Come dire, nel salotto bene della semantica dell'astratta teoria, ecco, si è evitato di contaminare il linguaggio con questo termine. Invece forse è meglio parlarne con il loro nome, visto che hanno un significato molto molto chiaro. Ecco, la questione invidia-gelosia in effetti è interessante, perché, dicevo, apparentemente l'invidia è diadica, due persone. In realtà è triadica, però perché c'è un pubblico giudicante che viene ipotizzato dall'invidioso, che vive la sua insicurezza, vive una condanna ai propri limiti, non come una potenzialità di sviluppo, come un modo per trascendere se stesso, per migliorare, no, lo vive come una condanna. E nel rapporto invece di gelosia esiste sempre, e qui è molto semplice, un problema di sofferenza, di odio, di rancore, per qualcuno, per un terzo, che ha portato via qualcun altro nell'affetto, sì, nella vicinanza, nella stima e via discorrendo. Per cui siamo in entrambi i casi di fronte a un rapporto a tre, sì, almeno come viene vissuta la questione. Però mentre nel primo caso si suppone c'è questa specie di ghost, di fantasma, che questo pubblico che giudica, la comunità che giudica, che misura, che compara, che fa i paragoni, nel secondo caso il fatto è reale. Sì. Non si possono assolutamente, sì, ci può essere una, diciamo, un'analogia, ma non un'equipollenza fra i due sentimenti. È vero che quello che diceva il professor Pellai, l'umiltà, vale dire, è quella marcia in più che fa sì che chi è arrivato, uno, non sia più invidioso, oppure insomma non soffra di questi sentimenti, e nello stesso tempo c'è la sicurezza di se stessi, che sì, però non si ostenta attraverso un atto di superbia, tanto per usare un'altra categoria, un altro vizio capitale della vecchia teologia, bensì nella semplicità e nella, ripeto, umiltà, che è la disponibilità all'altro. Quindi noi abbiamo umiltà e sicurezza di sé. Queste sono forse queste due strade per vivere l'invidia in modo meno negativo. Ho Alex da Milano e Luigi da Sassari, che per me è una parola difficilissima. Alex, buongiorno. Buongiorno. Volevo prima di tutto ringraziare per la possibilità che mi è stata data di poter comunque parlare. Grazie a lei. Volevo fare due considerazioni. Bene. Uno sul fatto che sono d'accordo con quel discorso che la gelosia non è la stessa cosa dell'invidia. E due, che io sento tante persone parlare alla radio, ma nessuno mai che ammette: sì, io sono invidioso di qualcosa. Lei è invidioso di qualcosa? Io purtroppo lo sono, sì. Non so se purtroppo per fortuna. No, ma guardi che lo siamo tutti. Poi secondo me tutti... Nessuno lo ammette. Alex, mi piace pensare all'invidia come una sorta di raffreddore. Tutti possiamo prenderlo. Poi nelle persone più fragili il raffreddore può avere delle complicanze. Quando invece un organismo è sano e ben strutturato, il raffreddore in 2 o 3 giorni se ne va. Mi sembra che possiamo dire, cioè, tutti noi abbiamo invidiato qualche cosa. Poi è il prodotto, che cosa ha prodotto in noi questo sentimento che ci fa stare nella categoria degli invidiosi o in persone che provano questo sentimento e lo rielaborano. Non so che cosa mi dici, Alberto, se è corretta questa... Sì, direi che proprio anche psicologicamente è una straordinaria lettura, perché poi alla fine l'invidia la sentiamo accendersi, c'è qualcuno che riesce con tranquillità a spegnerla, ad addomesticarla, ad domarla, qualcuno che la fa diventare proprio il registro su cui muove tante azioni della sua vita, e a quel punto ne è dominato invece che in controllo. Alex, l'importante è che poi alla fine non si diventi dei rosiconi. Sarebbe interessante magari chiedere ad Alex cosa muove in lui questo sentimento, cioè da che cosa viene acceso. Il fatto di vedere comunque alcuni comportamenti di altri ragazzi del mio stesso sesso in confronto al sesso opposto. Nel senso, vedo tanti amici che comunque riescono ad essere i primi a rompere il ghiaccio con delle ragazze. Io non ci riesco. Io è una cosa proprio che non sono mai riuscito. Non sono un bimbo, ho 35 anni. Però... Ecco perché dico, allora la mia non è invidia, è una questione caratteriale, è un difetto caratteriale. Alberto, forse questo non è un limite, magari no? Io direi che qua dietro probabilmente, come dicevamo prima, in termini psicologici c'è un'insicurezza magari più generale nei confronti del rapporto con l'altro sesso. Io ti darei questo consiglio, Alex: invece di invidiare una cosa che probabilmente gli altri non hanno e tu non hai, prova a cercare dentro di te qualcosa che ti può rendere molto speciale nel presentarti a una ragazza, che forse non è questo modo di essere diretti, di fare irruzione al primo colpo, ma tu hai un segreto che gli altri non hanno e potresti provare a giocare con quello il tuo primo approccio con una ragazza. Alex, ti dico anche un segreto: che a molte donne piacciono i timidi, quindi tu magari hai una carta in più e non lo sai. Alex, tanti auguri. Andiamo. Grazie. A Luigi. Luigi? Buongiorno. Perché Luigi? Lei non vive a Cagliari? Che così io potrei dire serenamente da che parte arriva. Per me Sassari, lo dico. Sassari. Perché io parlo nell'S, per cui Sassari è una cosa. Dovrei fare esercizio con Sassari. No, perché in effetti la città, il paese, insomma, 15.000 abitanti è Tempio Pausania. Ecco, io dicevo Tempio Pausania e facevo una bellissima figura. No, scherzo. Tempio, mi Luigi. Dispiace, Nicoletta. No. Tra l'altro poi adesso è anche provincia di Olbia Tempio, quindi avremo proprio... Va bene, allora la prossima volta che telefona Luigi facciamo questo giochino. No, scherzo, tanto per... Ci conosciamo per via mail comunque. Ti ringrazio velocissimamente per un favore che mi hai fatto, ma la chiudo qua, sennò poi prendo troppo tempo. Luigi. Ci siamo sentiti già via mail. Bene. Allora, volevo dire che... a proposito dell'intervento, che volevo andare un po' controcorrente e dire che sinceramente non so se sia un mio difetto caratteriale così sostanziale, oppure se io mi sono arreso, ma io non sono assolutamente, non sono mai stato geloso né invidioso di nessuno, e non sono neanche stato mai molto competitivo. Sono assolutamente, cioè, appartengo a una famiglia così medio borghese, ecco, ho 2 fratelli che sono perfettamente entrati nei circuiti del conformismo, quello convenzionale, insomma, del realizzarsi secondo Copione. Uno è commercialista, un altro è insegnante. Io sono invece il perfetto Fantozzi, un pochino fallito, un po' così la pecora nera, però sono anche affezionato al mio fallimento, cioè, voglio dire, mi piace la mia vita, non sono particolarmente geloso, e anzi, paradossalmente, sono anche per certe cose invidiato, ma forse sarà la mia calma, oppure non so se magari poi quegli anni... Luigi, perché lei è sereno ed è tranquillo ed è sicuro di sé, e questo... Nicoletta, avevamo deciso via mail di darci del... Allora Luigi, magnifico, grazie, mi fai piacere. Sentiamo il professor De Nardi, che l'invidia l'ha studiata e con un atto coraggioso, perché i sociologi, insomma, sull'invidia, come diceva giustamente il professor De Nardis, hanno sempre fatto qualche passetto indietro. Un po' così. Sì, perché corrode proprio quella rete sociale di cui voi vi occupate. Nel senso che Ecco, quando si va a corrodere poi il tessuto sociale non abbiamo più l'oggetto, ecco, della nascita, però, non c'è più la società. E anche se ci fossero tutti come il nostro amico Luigi, non ci sarebbe più da scrivere sull'invidia. Esatto, io volevo, prima è stata citata una frase di Moravia. Sì. Luigi, mi è piaciuta molto questa sua serenità. Moravia scrive pure, sei un fallito, ti senti fallito, vorresti non essere fallito, e allora invidi tutti coloro che non sono falliti come te. Invece, nel caso di Luigi, io non credo assolutamente che lui sia un fallito. Il fatto, lui è molto snob nel dire sì, questo. Sì, anch'io trovo è molto, che molto, nel, quando sia si molto dice, raffinato. Quasi tutti i grandi personaggi dicono alla fine, facendo il bilancio della propria vita, chi ha avuto la fortuna di arrivare a un'età considerevole, guardevole, ecco, diciamo così, dicono, ma la mia vita, ma è stata una sorta di fallimento, tutti grandi, quindi è un po' una forma di snobismo. Nello stesso tempo, vorrei dire, è molto bello questa serenità che deriva dall'idea di non dover possedere assolutamente qualcosa o qualcuno. La gelosia è una forma più o meno viziata di una falsa idea di possesso. Non si possiede nulla, non si possiede, figuriamoci, possiamo possedere l'altra persona, avere un senso di proprietà dell'altro, per cui direi che è proprio da qui che si deve partire. La sua domanda specifica poi, e poi volevo complimentarmi, permetto di complimentarmi con lei, perché in effetti la similitudine del raffreddore rende molto bene la cosa. C'è un proverbio toscano, sì, che dice: se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ne avrebbe. In qualche modo si sposa a quello che diceva lei. Magnifico, vede? Ecco, c'è il raffreddore, il raffreddore può degenerare in una patologia, può diventare una broncopolmonite addirittura se non curato, però una persona invece sana, una persona che correttamente sa come smarcare questa patologia minima, la supera. Insomma, come si dice, svolta poi, no? È svolta, diciamo. Svolta. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo di nuovo insieme. 824 0024, verde, un numero verde come questa insidia. Essere e benessere. L'invidia è una terribile fonte di infelicità per moltissima gente. Russell. È proprio vero, stiamo dicendo e sostenendo anche noi questa tesi, ma si dice, Alberto, che l'invidia sia donna. O alcuni dicono che gli uomini invidiano il potere, le donne la taglia dei pantaloni. In linea con noi una che di problemi di taglia non ne ha, e anzi è bellissima, è tornata a trovarci Miriam Leone. Ciao Miriam! Buongiorno. Posso dirti che bella ti si vede, e vabbè, non commento, si nasce così, ma tu sei bravissima, complimenti. Guarda, e vedi, un complimento fatto da una donna sta da già il primo luogo comune. Ecco, perché tu sei, secondo te, ecco, tu poi le donne si guardano, no? Tante volte con occhi molto critici. Sì, ecco, con gli scanner, io direi. Ecco, e quindi io devo, quando ti senti gli occhi delle donne puntati addosso, cosa dici? Cosa pensi? Beh, io penso sempre, spero di avere un giudizio poi alla fine positivo, no? Di superare l'esame, perché diciamo che sei continuamente sotto esame, ma anche quando cammini per strada sei sotto esame. Però credo questo capita a te, perché a noi non capita, devo dire, non lo so, anche Laura Vanossi è una bella stanga, mora e coso, no, forse. Però, devo dire che io non me li sento gli occhi puntati addosso. No, spiego, ci sono quelli di un famoso giornale di gossip, di cui adesso non so dire il nome, che mi seguono spesso ovunque, sì. Quindi io mi sento squadrata in generale da tutti, anche sì, certo. Giornali, perché c'è la pizza che la mangia la pizza bianca, oggi ho mangiato la pizza rossa, ma fa quello, quindi questo sguardo su di te, quando diciamo la tua vita cambia, quando diventi un personaggio quasi pubblico, e poi c'è sì lo sguardo delle altre donne che... Devo dire, io ho trovato positivo fino ad oggi, cioè non ho ancora avuto esperienze di quelle tremende da scrivere sui libri dell'orrore, quindi mi ritengo fortunata. Forse sai perché? Sì. Perché io credo che l'invidia faccia male a chi la prova. Sì. E allora questo mi dà una sorta di corazza, perché perché dico, vabbè, tanto stai male te, io sto bene, quindi non mi faccio tirare dalla cosa. Però l'invidia può fare del male, perché si può arrivare a calunniarle anche le persone, quindi è molto pericolosa, secondo me. Credo sia il male peggiore che volontario che possa esistere. Senti, fra esseri umani. Miriam, tu che sei naturalmente così invidiata, anche insomma direi invidiate in modo bonario, buono, perché insomma le Miss Italia diventano Miss, sono poi poche, no? Quelle che altre, siete quasi un'altra categoria di donne. Ma tu provi invidia, hai provato invidia qualche volta per qualche cosa? Ah sì, per un'istruttrice di orche a Nizza, ragazzi, cioè questa qua, un'americana che vive a stretto contatto con le orche e le orche fanno tutto quello che dice lei. Cioè per me una persona sovrumana, cioè non è un essere umano uno che ha un contatto con degli animali feroci che hanno sbranato chiunque, lei ha questo rapporto privilegiato con questi animali ed è fino ad oggi l'unica persona che mi sono resa conto di aver guardato per 3 minuti con invidia. Ho detto, ma come fa questa? Cioè non è possibile. Per il resto no, devo dire che per fortuna è un sentimento che non mi appartiene e forse vivo bene per quello. Alberto. Certe volte mi danno un po' della lice nel paese delle meraviglie per questo motivo, però no, sono molto felice di essere cresciuta così. Dipende molto anche, credo, dai genitori. Sì, da, e penso, come dicevano sia il professor De Nardis che Alberto, dipende un po' anche dalla sicurezza nei propri confronti. Alberto. Ma ascoltavo Miriam e due osservazioni. Quella sulla addomesticatrice di orche, secondo me quando vedi una persona che ha proprio un potere che tu non hai e che lo sa gestire con così tanta tranquillità, è chiaro che provi invidia, ma proprio perché vedi una potenza che per te sarà sempre impossibile. E a Miriam devo dire che effettivamente secondo me scatena poca invidia, perché è una ragazza chiaramente bellissima, è diventata Miss, eppure io vedendola in televisione mi sono proprio reso conto che lei non ha assolutamente puntato sulla seduttività per il proprio successo, ma sulla capacità di stare in relazione con le persone che incontra e di dimostrare costantemente un interesse per quello che si trova davanti. Scusate, potete mandarmi la registrazione? Sì, ma infatti Miriam, io pensavo, dico, dopo questo uno deve ogni tanto non ricaricarsi e vedi, con questa noi ti manderemo la registrazione, intanto ti mandiamo già tanti auguri. Oh, tantissimi auguri anche a voi, vi ringrazio, è sempre un piacere essere dei vostri. Grazie. Un bacio Miriam. Ecco, grazie, poi un bacio da una Miss vale molto di più e lo mandiamo agli ascoltatori di Radio 24. Grazie a Miriam. Professor De Nardis. Sì, ma quello che si diceva a proposito dell'invidia di genere, l'invidia tra generi, purtroppo l'invidia tra le donne è stata documentata da molte situazioni un po' da archetipo, insomma, pensiamo alla favola di Biancaneve, alla Bella addormentata nel bosco. Io vorrei dire questo, che negli anni del femminismo più importanti proprio per le donne, l'enfasi della sorellanza aveva in effetti occultato le possibili rivalità, le competizioni, le diffidenze, nella difficoltà proprio di costituzione della fiducia reciproca. Purtroppo poi ultimamente, perché abbiamo un certo tipo di modello sgomitante, non solo della donna, di noi, ma di tutti, parlo del nostro paese in modo particolare, l'aggressività femminile sembra riapparire latentemente, sempre presente tra insidi e agguati, anche se le forme sociali tendono a tenerla sotto controllo. Però sguscia come un po' una biscia. Ecco, questo è un altro spunto per una prossima puntata, professor De Nardis. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Colgo l'occasione per fare tanti auguri per un 2010 serenissimo e scoppiettante, pieno di soddisfazioni. Grazie, professore. Grazie a lei. Ci sentiamo nel 2010, auguri. Alberto, noi ci sentiamo domani, perché per domani cercheremo di fare una ricetta insieme per un 2010 all'insegna dell'essere e del benessere. Grazie ad Alberto. E ieri ci siamo salutati parlando di lenticchie, oggi con una bella coppia, uva e melograno. Una strana coppia, ma comunque molto salutare per il nostro benessere. Ci facciamo spiegare il perché con tanti preziosi suggerimenti dal dottor Attilio Speciani, che è tornato a trovarci, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno dottore, eccoci. Buongiorno a tutti voi, auguri. Qui siamo in anticipo, quindi... Sì, noi vogliamo portarci avanti perché così i nostri amici da casa hanno tempo di andare al mercato, andare al supermercato, sbagliato scegliere bene il prodotto e portarselo a casa, perché il 31 non vogliamo fare nessuna corsa. No, giustissimo, non che sono. Dice? Poi questo è perfetto, per cui ci diamo anche dei tempi per respirare, che è una delle cose più belle che uno può mettere nel novero dei desideri per l'anno prossimo, no? Avere il tempo per fare le cose con un po' di respiro, tutto sommato. Però ecco che parlare di acini d'uva, parlare di melograno, significa comunque dare un buon punto di partenza all'anno nuovo, perché parliamo di due dei frutti più ricchi di cose preziose che possiamo avere. Tra l'altro voglio sfatare immediatamente, perché molta gente dice l'uva ingrassa. No, l'uva non ingrassa, c'è dentro delle sostanze, una delle sue ricchezze è proprio questo resveratrolo che è dentro, sotto la buccia, che è dentro, che giustifica il fatto che i francesi che mangiano mucche di uva, bevono vino che deriva da, in realtà poi hanno meno malattie cardiovascolari, meno cancri e così sì, via. Sì, no? Il famoso paradosso francese. Esatto, per cui abbiamo il paradosso francese, ma anche i chicchini, posso dirlo, contengono il picnogenolo, che sono tra le cose ricche veramente. Come si chiama? Che mi piace? Picnogenolo, che carino, perché sono piccolini, semini piccoli, e ha dentro delle sostanze che fanno bene alle vene, fanno bene alla circolazione, fanno bene al cuore, fanno bene alla vista. E lo stesso dall'altra parte, il melograno ha dentro delle sostanze, tant'è che si può fare il succo. Uno dei suggerimenti, così lo dico subito per i brindisi, perché in realtà poi uno va in erboristeria, trova il succo di melograno, gli dice serve per un mucchio di cose, perché ha dentro davvero questo acido ellagico che funziona molto bene come antitumorale, soprattutto per i tumori del polmone, mammella, prostata. Quindi voi, cioè, ragazzi, ce l'abbiamo. E poi è ricco di vitamina C o sbaglio? Vitamina C e vitamina A, quindi va benissimo, e soprattutto dentro delle sostanze che sono i fitosteroli, che servono per contrastare il colesterolo, no? Quindi cosa di meglio per una sana pranzo cena di primo dell'anno, di saluto dell'anno nuovo, che non del melograno. Suggerimento, visto che tanto comunque qualcuno brinda a Capodanno, si può brindare con cautela, come però goderselo quando si brinda, se lo si gode. Uno dei metodi simpatici che io trovo è quello di schiacciarsi, lo può fare chiunque a casa, o con un mini pimero piuttosto che non con uno schiacciapatate, schiacciarsi i chicchini di melograno. Viene fuori il succo viene fuori sia dalla polpina dei chicchi sia dai semini interni, che sono pure dei ricchi contenitori di sostanze come quelli dell'uva, e questo lo aggiungiamo o al prosecco, lo spumante, lo champagne a seconda. Buonissimo. Qui lo dico e qui lo nego, Sì, già. però una cosa utile, che contemporaneamente dà colore, dà tono e dà salute insieme, e quindi contrasta anche alcuni degli effetti potenzialmente negativi. E poi il rosso, che è un colore ben augurante. Guarda, ci vuole il rosso, ce l'abbiamo nell'uva, l'uva migliore da questo punto di vista è quella rossa per fare salute, e il melograno è rosso e ci dà gioia, e quindi direi che partiamo con uno start nel primo dell'anno che è fenomenale, in cui leghiamo ancora salute, gioia e piacere, che vanno bene tutti insieme, dai. Allora, tanti auguri, dottor Speciani, ci sentiamo nel 2010 a questo punto. Certo, al 2010 con tutti i migliori propositi. Grazie. A presto. Buona giornata, e buona giornata a voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani 31 dicembre dopo il GR delle 11. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Nicoletta Carbone. Radio 24. La passione si sente.